in primo piano. Prima le scelte di chi non apre sulla vicenda Bertolaso, vale a dire il Sole 24 Ore, piano a metà per la Grecia, perché è l'altro tema. Ieri c'è stato il summit all'Unione Europea a Bruxelles e si è parlato soprattutto del salvataggio della Grecia, anche di pensioni, pensioni all'arme di Berlusconi, questo è il titolo di apertura del Corriere, pesano sempre più sui bilanci, ho posto il tema al vertice europeo. Tra l'altro sulle pensioni il Corriere ha un'inchiesta che poi vedremo. Per il resto è Bertolaso ovunque. Appalti e sesso, bufera su Bertolaso per Repubblica. La Stampa, il Premier, Bertolaso non si tocca. Per il Messaggero, appalti e favori, la difesa di Bertolaso. Il Giornale, sesso e soldi, le solite trappole. Libero invece fa un invito, Bertolaso racconti tutto. Per l'Unità, l'odore dei soldi, il Fatto scrive addirittura che schifo, ma si riferisce soprattutto a quell'intercettazione che ha fatto molto discutere, effettivamente ha fatto anche molto schifo, di alcuni imprenditori che speculavano e ridevano nel momento del terremoto, presagendo già e pensando alla possibile ricostruzione, ai possibili affari da fare. Come detto, Bertolaso. Su Bertolaso, ipotesi tangente, questo lo leggiamo sul Sole 24 Ore. Voglio partire da qui, da Marco Ludovico, a pagina 7. Perché? Perché è un paese un po' strano. Troverete che sembra quasi che l'accusa più grave nei confronti di Bertolaso sia quella famosa frase, intercettazione, in cui si parla di una tale Francesca e di una ripassatina da fare, che Bertolaso dice, ma per carità, era una fisioterapista, è una fisioterapista stimata. Insomma, sembra quella l'accusa più grave. E invece, giustamente, il Sole 24 Ore, insomma, dice su Bertolaso, ipotesi tangente, ipotesi, ma sarà questa delle due l'accusa più grave. È solo un'ipotesi, scrive Marco Ludovico, ma è l'accusa più pesante per Bertolaso, tangenti. Nell'ordinanza al GIP infatti scrive: gli investigatori ritengono che abbia una certa fondatezza ritenere che alcuni incontri con l'imprenditore, per esempio arrestato, Diego Anemone, siano stati finalizzati alla consegna di somme di denaro a Bertolaso. Ci sarebbero anche accertamenti bancari che stanno facendo. Mentre Berlusconi dice i PM si vergognino, il Corriere della Sera è l'unico giornale a intervistare in esclusiva con Giovanni Bianconi Guido Bertolaso. Ieri ha fatto un'intervista al TG2, oggi a pagina 3 del Corriere della Sera, un'intera pagina, Bertolaso si difende. Qualcuno mi ha tradito, ma non lascerò. Cominciamo dai soldi, pensare che si possa imbonire o comprare con 10.000 euro uno come me che ha gestito lavori per centinaia di milioni è perfino umiliante, dice Bertolaso. Penso di avere gli elementi per dimostrare che si sbagliano. E poi c'è la questione delle donne, mi dà molto fastidio, è imbarazzante, sono molto rammaricato. Questa signora Francesca, di cui si parla, è una fisioterapista brava, per bene, molto seria, a cui ricorrevo per combattere lo stress e il mal di schiena di cui soffro spesso. Poi scarica un po' su uno degli arrestati, Angelo Balducci, quando dice ha gestito tutto gli appalti del G8 alla Maddalena. Angelo Balducci, uno che è diventato presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cioè la massima autorità in Italia. Non mi pare di aver affidato l'incarico al primo che passava per strada. Mi dispiace che si parli di questa storia come di uno scandalo, mentre abbiamo fatto una grande modifica ambientale su un'isola come la Maddalena. Poi, riguardo alla stima di Berlusconi, dice il presidente Berlusconi parla per la stima che ha per me, che io ricambio. Quello che mi ha permesso di fare lui in Campania e in Abruzzo non l'avrebbe fatto nessun altro. Ho grande fiducia nei magistrati. E infine ecco qui l'accusa di Bertolaso, il clou dell'intervista, quando dice: quando mi hanno chiesto cosa provassi sapendo che nella classifica di popolarità venivo dopo il presidente Napolitano e prima del Papa, risposi che in quella situazione la mia preoccupazione era che qualcuno mi facesse trovare con una bustina di cocaina in tasca. Forse è ciò che sta accadendo. E Bianconi a quel punto chiede: chi gliel'avrebbe messa, scusi, questa bustina? Non lo so, aspettiamo l'esito dell'inchiesta. Sulle frequentazioni, non crede di essere stato superficiale di frequentare alcuni imprenditori, ma non ci sono state, dice. Se mi chiede qualcuno può aver tradito la mia fiducia, le rispondo che può pure essere, ma non ho elementi per sostenerlo. Anche questo imprenditore arrestato, Anemone, che sarebbe, secondo il giudice, colui che gli procurava anche incontri, favori sessuali in cambio di appalti, ha detto: l'avrò visto 3 o 4 volte, avevo rapporti con lui come con tanti altri che conosco. Insomma, un Bertolaso che si difende a tutto campo. Trovate, non sto neanche a fare l'elenco degli articoli, dei commenti, delle intercettazioni, Repubblica le pubblica tutte, praticamente 3 pagine intere di intercettazioni, feste, massaggi, ragazze, mandategliene 2 così lui si diverte, la famosa frase su Francesca, se potesse una ripassatina, ma c'è per esempio Antonio Polito sul Riformista che dice: ma insomma, scusate, ma queste intercettazioni da cosa si capisce da queste intercettazioni? Quasi nulla. Ci sono dei dubbi, una ripassata che vuol dire? Se è una fisioterapista che cura la schiena, una ripassata può essere anche un massaggio alla schiena. Così Franco Bechis su Libero scrive: ma di cosa stiamo parlando? Un'inchiesta che si basa sui si dice, qualcosa non torna nelle carte dei giudici, conti, si scopre per esempio che Bertolaso pagava regolarmente il conto della palestra, l'abbonamento. E poi insomma su questa festa mega galattica in cui dovrebbero esserci 1 o 2 o 3 situazioni per far divertire Bertolaso, secondo i magistrati queste situazioni sono prostitute d'alto bordo, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Insomma, il tema è questo, le intercettazioni ci sono per il Corriere: prostitute, champagne, l'idrovolante, taxi, tutti i favori di Anemone, che è questo imprenditore arrestato. Sicuramente sarebbero più accertate alcune prestazioni sessuali nei confronti degli altri arrestati, come appunto Balducci, come De Santis, come Della Giovanpaola, le altre persone che sono state arrestate. Il dato di fatto è che insomma i dubbi ci sono, le intercettazioni, quelle non mancano su qualsiasi giornale, le potete leggere. L'invito di Libero, col quale voglio chiudere questo argomento, è: Bertolaso, racconti tutto. C'è un Maurizio Belpietro che fa una lunga premessa, dice: noi siamo certi che insomma l'uomo del fare, l'uomo che conoscendolo abbiamo pochi dubbi, non abbiamo dubbi che riuscirà a tirarsi fuori da questa inchiesta. Certo, dice, una cosa è chiara: parli e in fretta, racconti la sua verità senza reticenze, senza strategie da azzeccagarbugli, dica ciò che è successo, spieghi chi è la donna che praticava i trattamenti, in modo che possiamo capire se si tratti di un'onesta professionista cinquantenne, come sostiene Berlusconi, o di una ragazza con altre abilità che non alleviare i dolori. Ovviamente vi risparmio, tutti i giornali sono andati in questo centro, un centro sportivo, alla ricerca di questa Francesca, un po' raccogliendo anche la stizza di molti clienti e anche di molti colleghi di questa Francesca, che dicono: ci state rovinando, siamo semplicemente delle fisioterapiste e dunque andatevene via. Questa Francesca, che però insomma ovviamente nessun giornale ha trovato, pare insomma che sia in fede da un mese, 45 anni, qualcuno dice brasiliana, qualcuno dice in realtà di Francesca ce ne sono 2 in questo centro, il Salaria Sport Village, il Fatto dice, lo chiama già l'Alcova Sport Village, hanno già deciso che era un luogo di perdizione, gli incontri hot nella struttura chiave dei mondiali di nuoto. Insomma, c'è chi è garantista, c'è chi invece è più giustizialista. Noi vi chiediamo: Bertolaso, secondo voi, alla luce di tutto quello che si legge sui giornali, alla luce dell'idea che ci siamo fatti, alla luce dell'inchiesta, può rimanere a capo di una struttura così importante, così centrale, così chiave come la Protezione Civile? Ne parleremo poi alle 8.30. Una vicenda che riguarda politica e sicuramente corruzione, questa è un po' più accertata, almeno da quanto dicono i giornali. Ne parla La Stampa, mette insieme 2 vicende, una l'abbiamo sentita, vale a dire quella che ha portato all'arresto in flagranza di reato per aver incassato presumibilmente una tangente da 5.000 euro Mirko Pennisi, presidente della commissione urbanistica al comune di Milano, accusato di aver preso questa tangente per favorire una pratica, sostanzialmente accelerare una pratica, prende la tangente e scappa a manette al consigliere del PDL a Milano. E in realtà la pagina della Stampa è divisa a 2, perché c'è una vicenda assolutamente simile. la provincia di Vercelli sotto shock, arrestato Renzo Masoero, vale a dire il suo presidente, che era anche candidato alla regione Piemonte per il centrodestra, cioè tra i candidati nella lista, immagino, con Cota, avrebbe chiesto a un imprenditore contributi per la campagna elettorale. Anche Repubblica li mette nella stessa pagina: Milano preso con la mazzetta in mano e Vercelli in manette il presidente della provincia. L'accusa per entrambi è quella di concussione. Di politica, come detto, la politica è fagocitata da tutto quello che è la vicenda Bertolaso. A parte questa vicenda di politica, ma politica e manette sostanzialmente, voglio citare solo una cosa, perché ancora c'è grande discussione su questa par condicio. Ieri abbiamo parlato di quello che succederà nei giornali, nei talk show nell'ultimo mese dopo il nuovo regolamento della RAI. Una cosa è certa, la voglio leggere dal Secolo XIX, il quotidiano di Genova in particolare, che la par condicio condizionerà anche Sanremo. Festival, via le poltrone ai politici. La par condicio irrompe al Festival di Sanremo. Perché? Perché non si potranno sostanzialmente assolutamente far alcuna intervista ai politici, ma neanche pare riprenderli. Niente volti di politici nelle prime file dell'Ariston e in diretta televisiva. È annunciato l'arrivo del ministro Scajola, di Luca Zaia, del segretario del PD Bersani, di Nichi Vendola, del presidente della regione Burlando, ma la RAI si è accorta che l'oscuramento dei politici nelle trasmissioni di intrattenimento vale anche per il festival. E allora cosa stanno facendo? Stanno rimettendo le sedie all'interno del teatro Ariston in modo da ridistribuire i posti e mettere i politici in zone dove le telecamere non passano mai. L'unico che potrà essere ripreso con un'eccezione è il sindaco di Sanremo, Maurizio Zoccarato, ma a condizione che salga sul palco e faccia scena muta. Non può neanche dire buonasera a tutti. Pare così. Questa è la par condicio, evviva. Piano a metà per la Grecia. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Come detto, si è parlato molto di Grecia ieri al summit dell'Unione Europea. In realtà non è che si sia deciso granché, nessun pacchetto dettagliato di aiuti, né il previsto piano franco-tedesco, solo una dichiarazione politica di piena solidarietà alla Grecia. E si è preannunciato anche misure concrete da varare più avanti, se necessario. Ma sostanzialmente trovate l'analisi a pagina 3 con Adriana Cerretelli. Vi voglio anche anticipare che questo è il tema di cui si occuperà Oscar Giannino alle 9. E dunque tutti i dettagli, capire come l'Europa intenderà e se intenderà intervenire per i conti disastrati della Grecia, lo scopriremo poi alle 9. Come detto, il premier Berlusconi da Bruxelles ha lanciato il tema delle pensioni. Al vertice ho posto il problema dell'età pensionabile, visto che è un'esigenza sentita da parte di tutti, le pensioni stanno pesando sempre di più sui bilanci degli stati. Così ha detto Berlusconi. E tra l'altro oggi il Corriere della Sera, in prima pagina dell'economia, pone un'inchiesta che, non so, farà forse arrabbiare qualcuno, forse farà un po' arrabbiare soprattutto i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti, perché andiamo a scoprire pensioni, la mappa dell'INPS, i dipendenti pagano il doppio degli autonomi. Questo si scopre a pagina 30. I lavoratori autonomi versano all'INPS, nel migliore dei casi, la metà di quanto pagano i lavoratori dipendenti. Alla fine però ottengono una pensione un po' più bassa, ma non certo dimezzata. Sono sostanzialmente l'analisi, l'elaborazione degli ultimi dati INPS sui contributi e le pensioni per le diverse categorie. Andiamo a vedere. Allora, il Corriere scrive che nel 2008 i lavoratori dipendenti hanno versato una media di 7.954 euro di contributi a testa, quasi 8.000 euro. Ovviamente si va da un minimo di 1.797 degli apprendisti ai 45.000 dei dirigenti, vabbè, insomma, la media è 8.000 euro. Nello stesso anno gli artigiani hanno contribuito per 3.727 euro, i commercianti per 3.652 euro. Dunque, appunto, pagano circa la metà i lavoratori autonomi, mentre i lavoratori dipendenti pagano circa il doppio. Però, scrive il Corriere, non è che alla fine le pensioni sono per i lavoratori dipendenti il doppio rispetto alle pensioni dei lavoratori autonomi. E dunque, non lo so, forse se siete di lavoratori dipendenti in questo momento siete un po' più arrabbiati, se siete lavoratori autonomi siete un po' più contenti. Andate a vedervi le cifre snocciolate sul Corriere della Sera e magari capirete qualcosa di più. Questa non è economia, ma anche se è un settore importantissimo dell'economia, ma in realtà è soprattutto una cronaca tragica che trovate ben analizzata su tutti i giornali. Tra l'altro sono proprio i giorni anche delle sfilate di Milano, della moda, ma la moda oggi è un po' bloccata, piange la scomparsa di chi, abbiamo sentito di Alexander McQueen, definito lo stilista, chi l'ha definito lo stilista hooligan, lo stilista sicuramente eccentrico, colui che sostanzialmente, scrive Paola Bottelli sul Sole 24 Ore, è stato trovato per il San impiccato. L'unica certezza, scrive Paola Bottelli, è che l'eccentrico stilista Alexander McQueen è stato trovato morto ieri mattina nella sua casa londinese, proprio una settimana dopo la morte della madre, dolore evidentemente insopportabile che l'aveva fatto piombare in una profonda depressione. Secondo i più stretti collaboratori aveva smesso di presentarsi al lavoro e pure di mangiare. C'è un profilo di chi era questo Lee McQueen, questo è il suo vero nome, scrive Paola Bottelli, che avrebbe compiuto 41 anni il 17 marzo, davvero stilista eccentrico. Per esempio molti ricordano di recente le sue ragazze mutanti, metà essere umano, metà rettili, inguainate in abiti da seta e stampate dalle costruzioni sapienti, fatte sfilare di recente con i tacchi 20 centimetri che molte star si rifiutarono tra l'altro di calzare proprio per il timore di scivolare davanti ai paparazzi. Insomma, c'è un profilo di chi era Alexander McQueen, figura scomparsa appunto nel mondo della moda. Cosa troviamo ancora di segnalazioni finali? Beh, intanto c'è stato il dietro front sulla donazione degli organi. È una pagina intera del Messaggero. Scompare l'obbligo, ieri abbiamo parlato, pare che nel mille proroghe avevano inserito questo emendamento per far inserire sulla carta d'identità l'obbligo di inserire sulla carta d'identità se uno voleva o non voleva donare gli organi. Invece questo obbligo è diventato sostanzialmente corretto, l'emendamento è diventata un'indicazione facoltativa, cioè chi vorrà lo segnerà sulla carta d'identità, chi non lo vorrà invece no. L'ultima segnalazione è dalla Stampa. L'ospedale non è un carcere. È Umberto Veronesi che lancia questa proposta. L'orario di visita è una vergogna, i parenti devono entrare quando vogliono. Il progetto è umanizzare le corsie degli ospedali. Chi è ricoverato, dice Veronesi, in qualsiasi momento della giornata deve poter contare sulla presenza dei propri cari, i soli capaci di confortare e dare affetto in un momento tanto critico. È un'intera pagina, pagina 13 della Stampa, la battaglia per l'umanizzazione delle corsie. C'è chi in realtà è contrario, come il primario Ermanno Leo dell'Istituto dei Tumori, che parla di slogan umanitario. Ma insomma, Veronesi ha lanciato questa battaglia dicendo non ci deve essere l'orario di visita. Orario di visita aperto, bisogna entrare dai propri cari in ospedale tutto il giorno e questo è un modo per umanizzare il rapporto anche con il malato.